Sappiamo perfettamente che l'Italia è una delle potenze uscite fuori dalla Seconda Guerra Mondiale nella condizione della potenza sconfitta e sappiamo che è rinchiusa in un recinto ben preciso di cui erano consapevoli innanzitutto i comunisti. Tanto c'era Yalta. E i comunisti appunto sapevano che da Yalta non potevano aspettarsi, a maggior ragione con un leader come Berlinguer che era calato in quella storia, in quella drammatica storia, sapeva perfettamente che non potevano accampare diritti di governo in Italia. E poi Mestatore, perché sembra equiparare il Partito Comunista alle Brigate Rosse, come se ci fosse una strategia comune. No, beh, lui in un certo senso direi che invece distingue precisamente e dice il Partito Comunista aveva la strategia giusta per poter in qualche modo condizionare la Democrazia Cristiana e la linea della fermezza era lo strumento attraverso il quale si sarebbe potuto, come dire, pareggiare il conto. Senza la linea della fermezza il Partito Comunista avrebbe vinto. Mix 24. Sono le 10:45, 43 secondi. Con noi al telefono c'è il professor Giorgio Simonelli, professore di storia della televisione della Cattolica, col quale parleremo tra un attimo della giornata televisiva di ieri. Ma intanto, Mario, le ultimissime. C'è l'esca, quella di cui parlava Pietrangelo Buttafuoco all'inizio della trasmissione. Il ministro della difesa Mario Mauro, che è stato anche un importante parlamentare europeo, ha chiesto al PPE di terminare la collaborazione politica con il PDL. In un'intervista alla FAZ, alla Frankfurter Allgemeine Zeitung, ed è un passo molto significativo. C'è anche un'altra notizia, cioè la canonizzazione di Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II, il 27 aprile. Sono state fissate le date. Bene, allora, grazie. Abbiamo al telefono il professor Giorgio Simonelli. Giorgio, mi senti? Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, con te cominceremo la nostra rubrica quotidiana per parlare di televisione. Ne parleremo da un punto di vista molto preciso, il punto di vista del canone. Perché prendiamo il canone come punto di partenza? Perché il canone è quella tassa che lega la RAI allo Stato. E nel 2016 scadrà la convenzione che lega, anzi la concessione che lega la RAI allo Stato, e il canone dovrà essere riassegnato, ovviamente speriamo alla RAI per intero. Ma naturalmente il dibattito su quali saranno le motivazioni per cui sarà riassegnato alla RAI il canone sarà un dibattito che in qualche modo si accenderà nel corso del prossimo futuro. E allora noi cominciamo proprio a cercare di porci questa domanda per leggere la programmazione televisiva: dov'era il canone ieri sera? Ecco, Giorgio, secondo te dov'era il canone ieri sera? Ma guarda, ti dirò una cosa che forse sorprenderà. A dispetto della giornata, e che si è poi conclusa con una importante intervista del Presidente del Consiglio, secondo me il canone ieri è stato tutto il giorno su Rai Sport, dalla mattina fino alla sera con i mondiali di ciclismo e con una diretta, lunga diretta, che poi ha coinvolto anche Rai 3 nel pomeriggio, del mondiale di ciclismo. Ti spiego perché. Perché il ciclismo, a dispetto di quello che nel nostro paese è un po' considerato, che è ancora un po' lo sport di Coppi e Bartali, è lo sport forse più globalizzato e internazionale. I mondiali di ciclismo sono un avvenimento che è visto dalla Colombia all'Australia, dagli Stati Uniti all'Inghilterra. E allora una televisione che presenta, che rappresenta i mondiali di ciclismo, che vuol dire rappresentare il paesaggio in cui si svolgono, il paese in cui si svolgono, le strade su cui si svolgono, vuol dire che lo rappresenta a tutto il mondo e crea un'immagine del paese che va in tutto il mondo. Quindi la televisione popolare che fa questo servizio pubblico, secondo te è una televisione che adempie al suo compito in qualche modo? Guarda, c'è un'inquadratura che ieri ho visto attorno a mezzogiorno, che molti avranno visto, ed è l'inquadratura in cui i corridori passano da Firenze e passano accanto al Battistero e a Santa Maria del Fiore. Tu puoi immaginare cos'è questa immagine vista da una famiglia australiana, da una famiglia americana, da una famiglia colombiana? Ecco, ecco, vuol dire che è l'Italia, l'Italia e quindi, più bella. E quindi il grande sport popolare che resti ancorato al, come dire, agli schermi della RAI è un grande servizio pubblico, questo stai dicendo? La collina di Fiesole, le ville toscane, pensa quanto bene ha fatto alla Francia, all'immagine della Francia, tutte le estati, la ripresa del Tour de France, la ripresa della campagna francese. Che immagine però, della Francia, la France 2, però, è riuscita a costruire attraverso il Tour. Ieri si è costruita un'immagine meravigliosa dell'Italia che è andata in tutto il mondo attraverso Giorgio, il Mondiale. Giorgio, però tu hai detto prima una cosa che mi è sembrata importante, l'intervista del Presidente del Consiglio a Che Tempo Che Fa da Fazio, cioè in fondo ancora la RAI ha questo ruolo di, in un certo senso, di ufficialità e poi nel momento buono viene scelta per la grande comunicazione. Io penso anche che ci sono da segnalare dei programmi, magari minori, ma che sono partiti in questi giorni e che adempiono in modo molto significativo il ruolo di servizio pubblico della RAI. Uno per tutti, Mi Manda Rai 3 sulla terza rete, che è ritornato ed è ritornato con una certa brillantezza. Io penso anche che Servizio Pubblico di Santoro ha fatto servizio pubblico, perché la ricerca linguistica che Michele fa con il suo programma è una ricerca interessante che segnala uno sforzo di creatività continuo. Però non dimentichiamo i canali tematici, ne parleremo tutti i giorni di televisione, quindi avremo modo. Intanto io mi collego con Dario Nardella, che è a Firenze e per l'appunto è stato in qualche modo quello che ha organizzato, portato, non so, ci dirà lui, a Firenze il campionato mondiale di ciclismo. Dario Nardella al telefono? Eccomi, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Ecco, allora, per Firenze ha sentito il peana che ha fatto Simonelli, diciamo, dei mondiali a Firenze, del loro significato di racconto, delle bellezze. Per voi è stato un successo? Lo considerate un successo? Beh sì, io mi ritrovo molto nelle considerazioni del professor Simonelli, perché se noi intendiamo servizio pubblico anche un modo per promuovere l'Italia, il paese, direi che i mondiali di ciclismo sono l'evento sportivo che per eccellenza promuove il territorio. A differenza degli altri sport, le telecamere non sono puntate in un palazzetto o su uno stadio o su un campo da tennis, ma sono puntate sul paese. E vedere i più grandi campioni di ciclismo correre tra le colline di Fiesole, nel centro storico di Firenze, fra le mura di Lucca, nella campagna toscana, è un'esperienza straordinaria che coniuga la bellezza del nostro paese e il fascino di uno sport che tra l'altro è molto radicato in Toscana. Io dico, certo, organizzare i mondiali di ciclismo in Toscana è un po' come insomma, è stato un successo. È stato un successo, grazie. Da questo punto di vista è un successo, devo dire. Grazie, grazie mille. Ecco, abbiamo avuto delle segnalazioni interessanti. Io penso che sulle All News di Rai News 24 l'altra sera c'è stato uno scoop molto interessante di Monica Maggioni, che ha intervistato il presidente della Siria, facendo davvero un colpo giornalistico e un servizio di prim'ordine. Ci sono novità. Arrivo alle novità. Anche, l'ho detto prima, i canali tematici, soprattutto per i bambini, stanno riqualificando un'offerta che si era impoverita molto nel pomeriggio delle televisioni generaliste, e invece canali come Rai Yo-Yo danno un ruolo importante all'idea di servizio pubblico. È una buona motivazione per pagare il canone. D'accordo, Giorgio? Una battuta? D'accordo. Solo un una considerazione. Sulla politica sono d'accordo, ieri sera è stata una serata importante istituzionalmente, non bisogna esagerare. Ecco, non bisogna esagerare perché sennò invece che un servizio diventa un'ossessione. Okay. Se si fanno 10 talk alla settimana e si parla poi sempre della stessa cosa. Va bene, e questo avremo modo di parlare. Ti ringrazio. Prima di chiudere, l'ultimissima, Mario. No, un'interessantissima intervista del ministro degli esteri russo Lavrov al quotidiano Kommersant, che dice che per distruggere le armi chimiche siriane possono essere usati mezzi mobili degli Stati Uniti. Quindi c'è una collaborazione fortissima tra i due ex tra virgolette nemici, sempre un po' nemici. Strategia di Annibale in che senso? Nel senso che bisogna preparare un'ottima pace per finalmente completare la guerra. Bene, siamo arrivati alla fine della trasmissione. L'appuntamento per tutti con Giorgio e Pietrangelo e con tutti voi è per domani alle 9 come sempre. Grazie, arrivederci.